Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi a Essere Benessere ci occupiamo delle nostre gambe, caviglie gonfie, prurito, dolore diffuso, ma anche a crampi proprio simili a veri e propri morsi e una fastidiosa sensazione di pesantezza. Così le gambe cercano di attirare la nostra attenzione. Se volete concederla, chiamateci subito al nostro numero verde che è già a vostra disposizione, 824 00 24. I messaggi, il 349 238 6666. In regia abbiamo Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi, ma in studio con me abbiamo la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT e responsabile del centro trombosi di Humanitas. Dottoressa, bentornata. Grazie, buongiorno. Adesso che le gambe si scoprono, perché la temperatura per fortuna diventa un po' più tiepidina, vengono a galla i problemi. Notiamo vene venuzze che, coperte dalle calze pesanti dell'inverno, avevamo un po' fatto finta di non vedere, e le nostre gambe con i primi caldi tendono a diventare più pesanti, le caviglie si gonfiano, le scarpe a fine giornata sembrano più strette. Insomma, queste sono un po' delle piccole avvisaglie che si presentano puntuali tutti gli anni in questo periodo. In alcuni casi poi il problema continua, in altri invece sembra temporaneo. Ma cerchiamo un po' di capire la situazione. Beh, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è che le gambe sono il sostegno del nostro corpo, sono la parte più bassa del nostro corpo e sono, sostengono una colonna di sangue che deve tornare verso il cuore. Questo parlo soprattutto del sistema venoso. Le nostre vene quindi sono sottoposte a un carico molto importante, e questo carico aumenta molto quando il nostro peso aumenta molto. Quindi il sovrappeso non solo sovraccarica le ossa, ma sovraccarica anche il sistema venoso. Immaginatevi questa alta colonna di sangue che deve ritornare faticosamente verso il cuore. E se è ostacolato in questo ritorno, per esempio, dal grasso addominale che ostacola il ritorno del sangue verso il cuore, questo certamente bene non fa. Poi dobbiamo ricordarci che quello che preoccupa sempre la gente sono le cose piccole, quindi i capillari, le dilatazioni, sì, perché sono le più appariscenti. Ma quelle invece sono degli aspetti importanti, ma non sono fondamentali. Quello che invece è fondamentale è il sistema venoso profondo, quindi le nostre vene che dai polpacci, dal piede al polpaccio, ritornano, portano il sangue verso il cuore. Quindi, per quanto riguarda i capillari, col caldo, la dilatazione, il cambiamento del clima, è evidente che il capillare si può un pochino dilatare. Non c'è, penso, molto da fare, perlomeno dal mio punto di vista, che è un punto di vista medico, non chirurgico e non interventistico. Invece per le vene ci sono alcune cose che sono importanti. Le donne, per esempio, hanno delle gambe diverse da quelle degli uomini. La famiglia è importante, perché se ognuno di noi eredita dalla sua famiglia i codici con i quali si è costruito. Sì. E se la mamma o il papà avevano delle vene molto dilatate sulle gambe, può darsi che questo assetto strutturale sia ereditato e quindi quelle vene siano più fragili. Dottoressa Vender, proprio sulla base della medicina di genere, oggi proveremo a guardare le gambe delle donne e le gambe degli uomini. E allora iniziamo dai fattori di rischio. Alcuni lei li ha già anticipati. Sicuramente il sovrappeso è nemico della nostra circolazione, chiamiamola così. E l'inattività fisica è un altro nemico, perché l'inattività fisica vuol dire poco esercizio della pompa muscolare delle gambe, che dovrebbe aiutare il sangue a ritornare verso il cuore. Quindi anche l'inattività fisica. Quindi invitiamo le donne in ascolto a chiamarci se hanno gambe gonfie, soprattutto sono gonfie la sera, soprattutto se una gamba è gonfia più dell'altra, e se hanno delle vene appariscenti sulla polpaccio oppure sulla coscia. Le vene varicose. Esatto. 800 24 00 24, un invito che rivolgiamo agli uomini, soprattutto se hanno le seguenti caratteristiche. Dottoressa Rotavender, quali? Allora, sovrappeso, inattività fisica, familiarità, guardare indietro. Non è vero che gli uomini non hanno le vene varicose, ci sono giovani uomini che a volte hanno una vena molto dilatata che improvvisamente compare sulla coscia o sulla gamba. Quello è un segnale che in quella vena c'è ristagno, c'è poca elasticità, quindi il sangue ristagna, e quando il sangue ristagna tende a coagulare. Sono già arrivati diversi sms che ci danno modo di entrare un po' nel dettagli e di dare consigli mirati. Alba ci scrive: da più di un mese ho un piede gonfio e ho scoperto di avere la pressione un po' altina. Potrebbe esserci una relazione. Mia madre è stata operata alla safena. Ho 43 anni. Ma io direi che più che relazione fra l'ipertensione e il piede gonfio, ci può essere relazione col fatto che la mamma sia stata operata alle vene. Se le vene della mamma sono state operate, può darsi che familiarmente la struttura, il tessuto che la figlia ha ereditato dalla madre sia un tessuto sfavorevole, quindi poco elastico. Su questo tessuto sfavorevole può giocare in un modo molto importante la gravidanza, per esempio l'uso della pillola contraccettiva, che sappiamo far emergere una certa tendenza eccessiva del sangue a coagulare in alcune donne. Questo però accade in genere soprattutto nei primi mesi di utilizzo della pillola. Nelle donne che usano la terapia ormonale, ma data l'età non mi sembra che questa signora abbia la terapia ormonale sostitutiva della menopausa, quello che è importante è che lei abbia una gamba più gonfia dell'altra, un piede più gonfio. Ora, possono essere mille le ragioni, può certo essere un problema di tendini, di articolazione, di muscoli, ma bisognerebbe escludere che non ci sia un problema di insufficienza venosa e di conseguente rischio di trombosi. Quindi io direi che un Doppler potrebbe essere un esame facile e non aggressivo da dottoressa chiedere. Dottoressa Rottavender, cambia se a essere gonfie sono tutte e due le gambe, se il problema si distribuisce equamente? Sì, cambia, perché è molto improbabile che ci sia un'insufficienza venosa identica in tutte e due le gambe. Se tutte e due le gambe tendono a diventare gonfie, soprattutto le caviglie, e comprimendo la pelle sopra la caviglia rimane l'impronta del pollice, quella più probabilmente è una ritenzione che può derivare o da un problema renale o da un problema del cuore. Sì. Quindi noi è un piccolo autotest che possiamo subito fare a casa. Sì. Se l'edema derivante soltanto dall'insufficienza venosa di solito è un edema duro, quindi schiacciando con il pollice sopra l'inizio della caviglia, sì, proprio fra il piede e la caviglia, l'impronta di solito non rimane, si chiama edema duro. L'edema molle invece è più tipico del ristagno di liquido derivante da malattie del cuore o del rene. Luigi da Lucca: ho le gambe a rete perché sono pieno di venuzze rosse e viola, molto superficiali, ho 32 anni e sono un cicloamatore. I capillari sono il sistema di rete che permette al sangue dalle arterie di passare al tessuto con i capillari, e poi i capillari recuperano il sangue sporco, diciamo, da rimandare al cuore, da purificare. Quindi quando questa rete si dilata, di solito è un problema strutturale. Come dicevamo prima, è una cosa molto appariscente, anche molto fastidiosa. Io non saprei cosa consigliargli, forse un suggerimento potrebbe essere che provasse ad usare una calza compressiva, ma intera, lunga, fino a, diciamo, un collant da uomo, quando va a fare attività sportiva, perché quello è il momento in cui questo circolo potrebbe essere sovraccaricato. E quindi di sentire la nostra trasmissione, perché parleremo tra poco anche proprio di calze compressive, di calze elastiche, di calze da riposo. Sono uno strumento valido, aiutano a prevenire oppure sono terapeutiche? Ci raggiungerà il dottor Arpaia, ma adesso andiamo a Messina perché ci aspetta Rosanna. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda alla dottoressa, appunto per le gambe. Il mio fastidio inizia primavera e estate. La notte mi succede che non riesco a tenere le gambe ferme, non ho né un dolore né prurito, ma è proprio una sensazione di stendere. Di frenesia. Rosanna. Sì. Rosanna, quanti anni ha, scusi? 36. 30, infatti dalla voce sembrava molto giovane. Dottoressa Rottavender. Questa che lei descrive mi sembra, da quello che racconta, che si possa definire come sindrome delle gambe senza riposo. La sindrome delle gambe senza riposo è proprio caratterizzata da questa impazienza delle gambe durante la notte, quando si è nel letto, che non si riescono a tenere ferme, perché non sono dolenti, non sono pesanti, ma hanno proprio questa, lo chiamiamo, i nervi nelle gambe. Questa è una sindrome che può dipendere da mille ragioni, dall'insufficienza venosa, ma soprattutto da problemi della schiena. Io mi ricordo che ne avevamo parlato. Sì, ne avevamo parlato nel nostro archivio, può trovare Rosanna delle proprie puntate dedicate a questo disturbo, la sindrome delle gambe senza riposo, che è un nome che la dice lunga, bellissimo, azzeccatissimo, non capita spesso, no, perché proprio queste gambe non riescono a star ferme. Ci si alza dal letto, si fanno quattro passi, si ritorna e sembra che finalmente si siano quietate, ma poi molto spesso riprendono. Quindi un consiglio: andare sull'archivio, parlarne con il proprio medico, perché comunque le soluzioni a questo problema esistono. Volevo, a proposito di ragazze giovani e di pillola, Mariella ci scrive: mia figlia prende la pillola da 3 anni, ho sentito dire dalla dottoressa che il contraccettivo ormonale può avere delle conseguenze sulla circolazione, deve fare controlli, quali? Nel nostro sistema della coagulazione del sangue c'è un sistema intelligente che permette al sangue di riconoscere la necessità di passare dallo stato liquido alla forma di gel e poi a costruire il coagulo. Questo è un meccanismo buono che serve per cominciare a costruire, a fermare l'emorragia e poi a costruire la cicatrice. Ci sono alcune situazioni che possono alterare questo equilibrio fra i fattori che fanno coagulare il sangue e quelli che lo trattengono dal coagulare troppo, quindi pro e anticoagulanti. Uno di questi sono gli ormoni. Gli ormoni possono essere di vario tipo, quelli della pillola contraccettiva, soprattutto le nuove pillole, quelle che sono uscite negli ultimi 15 anni, sembrerebbero avere un equilibrio tale da essere capaci non da soli di determinare una trombosi, ma di contribuire a squilibrare un sistema che in una persona predisposta potrebbe provocare una trombosi. Quindi l'indicazione non è tanto di fare chissà quali esami del sangue, ma di guardare prima la propria famiglia. Se nella famiglia c'è qualcuno che ha avuto un evento da trombosi o da embolia, una tromboflebite, una trombosi venosa profonda, un infarto, un'ischemia, allora in quella giovane donna potrebbe essere utile fare un accertamento che escluda questo squilibrio. Come vi avevo anticipato, vogliamo parlare di calze. Noi le chiamiamo calze elastiche, ma andremo poi nel dettaglio, impareremo proprio i termini corretti per definirle. Ci ha raggiunto il dottor Arpaia, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei. Direttore dell'unità operativa di angiologia all'ospedale di Vimercate. Dottore, allora, noi vogliamo capire un po' come orientarci nella scelta di queste calze che a voi medici piacciono e noi spesso le viviamo come una penitenza. A chi servono? Sono preventive, terapeutiche? Come sceglierle? Chi deve prescriverle? Allora, iniziamo dall'ABC. Iniziamo a parlare quindi di calze che ci permettono di effettuare una compressione, perché è questa che fa la differenza, ma qui ho bisogno del suo aiuto. Quali caratteristiche devono avere le calze che svolgono un'azione terapeutica? Dunque, le calze terapeutiche sono delle calze che sono proprio progettate e confezionate in maniera totalmente diversa rispetto alle calze cosiddette riposanti. Sono calze che sono prodotte secondo standard internazionali molto molto specifici, che garantiscono una decrescenza della compressione dalla caviglia verso l'alto, verso la gamba o verso la coscia a seconda del modello, e devono appunto rispondere a delle caratteristiche che sono internazionalmente definite e certificate da alcuni enti che sono presenti in alcuni paesi europei. Dottore, per intenderci, quelle che noi acquistiamo anche al supermercato e nei negozi e che sono caratterizzate, no, dai denari, 30 denari, 20 denari, eccetera, sono tutt'altro tipo di calze di quelle che invece voi medici prescrivete per fare questa compressione che aiuta, no, a riprendere un po' il funzionamento della pompa. Ecco. Sono totalmente diverse, non sono delle calze terapeutiche. Tra l'altro, come già si era detto in passato, i denari non sono un'unità di misura relativa alla compressione, ma relativa al peso del filato. Certo. Non c'è nessuna correlazione tra numero di denari e compressione trasmessa. Per cui chi avesse una patologia venosa degli arti inferiori non ha alcuna indicazione a usare calze graduate in denari, ma solo calze graduate in millimetri di mercurio e terapeutiche. Che vengono prescritte dal medico, vero? Devono essere prescritte dal medico e dovrebbero essere prescritte dal medico in maniera molto attenta. Il medico dovrebbe stabilire addirittura anche la taglia della calza, oltre che il livello di compressione, perché è fondamentale la buona correlazione tra diametri della gamba del paziente e tolleranza rispetto a questi diametri della calza prescritta. Quindi se non è su misura, dottor Arpaia, rischia di non essere utile. Assolutamente, potrebbe addirittura diventare controproducente. Certo è che sono calze per chi ha patologie di un certo livello. Dottore, io la saluto, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, altrettanto, arrivederci, buona giornata. Adesso noi andiamo a sentire i mercati. 824 0024, dottoressa Rottavender, torneremo su questo aspetto. Ci sono anche degli esercizi che possiamo fare, dei movimenti che possiamo fare per aiutare le nostre gambe. siamo tornati insieme, dottoressa Rottavender, mi viene da sorridere perché ci siamo lasciati con le calze in mano. Abbiamo detto quali sono quelle terapeutiche, le abbiamo differenziate da quelle che invece sono più spesse, quelle con la gradazione espressa in denari, che non hanno nessuna azione terapeutica né contenitiva, ma adesso queste calze sono da infilare, devono essere fatte su misura, cioè prescritte proprio a misura di gamba, ma infilarle non è semplice. Perché? No, è molto importante infilare le calze correttamente, perché le calze esercitano una compressione che deve partire dal piede e andare verso la coscia, e in genere il suggerimento generico è calzare a gambe svuotate, quindi prima di alzarsi dal letto la mattina. Io cambierei questo suggerimento, intanto perché non è pensabile che una persona si sveglia la mattina e abbia già l'incubo di doversi mettere le calze. Brava. Quindi si alza, va in bagno, fa la sua igiene, poi il consiglio che io do è di ritornare a letto, sdraiarsi sul letto, alzare le gambe sulla testiera del letto, in modo che tutto il sangue tenda a defluire verso il cuore. Le gambe diventano pallide dopo pochi secondi, 10-20 secondi. Quando le gambe sono ben pallide, quindi si sono svuotate, non c'è sangue che ristagna all'interno, ma è sangue che corre, si poggiano sul letto e allora si calzano le calze. Quello che io suggerisco è di usare sempre del borotalco prima di metterle, perché purtroppo sono calze molto spesse e molto facilmente il paziente fa veramente fatica, soprattutto se ha una certa età, quindi non ha la schiena che si piega bene, si deve far aiutare, questo non sempre per tutti è possibile. Quindi gambe vuote, appoggiate sul letto, e calzare la calza dopo aver fatto un massaggio col borotalco a partire dalla punta del piede verso il cuore. Dobbiamo riportare il sangue al cuore, quindi da punta del piede all'inguine. Andiamo a Roma. Italo, buongiorno. Italo, non lo sento più. La trasmissione. Italo, buongiorno. Per un attimo non la sentivo, ho detto dove è andato Italo con le sue gambette. Buongiorno Italo. Buongiorno dottoressa. Io volevo chiedere alla dottoressa, io tutti gli anni mi reco a fare le cure termali, dove faccio dell'infodrenaggio e degli idromassaggi con ozono. C'è altre terapie che posso applicare alle mie gambe, visto che sono tre operazioni che ho avuto? Io non posso dare dei suggerimenti tecnici su quale tipo di trattamento, forse qualcun altro può far meglio di me, però posso dirle una cosa che non deve fare: non deve utilizzare trattamenti che prevedono l'uso di calore, quindi eviterei tutto quello che è molto caldo, perché questo le potrebbe danneggiare il circolo venoso. Italo, lei porta le calze a compressione? Sì, calzini alti, diciamo, non calze complete, perché sì, è imbarazzante. C'è una vecchia contestazione fra i medici donna e i medici uomo su questo tema, perché i maschi, i medici maschi tendono di solito a prescrivere il gambaletto, perché sì, si mettono nei panni del paziente e credono che possa portare solo il gambaletto. Invece io, che sono un medico donna, preferisco suggerire il collan, anche se al momento può sembrare una cosa imbarazzante. Trovo che invece di usare una sola calza, come qualche volta viene suggerito nei casi di flebite o trombosi di una gamba sola, sia molto più imbarazzante che non portare un collan, che può assomigliare a quelle calze che si portano per esempio quando si va a sciare, le calze da caldo, diciamo. E questo collan permette poi di calzare gli calzini sopra. Perché collan? Perché il ritorno del sangue verso il cuore è favorito se la compressione viene esercitata su tutta la gamba e non soltanto sul polpaccio. Italo, ci pensi, magari si converte al collan, calzino, collan in cambio di calzino. E a proposito, a proposito di caldo, lei ha suggerito a Italo di non fare trattamenti. Ci arriva un messaggio da Stella che ci scrive: sono stata operata alla Safen un anno fa, faccio palestra due volte la settimana, vorrei fare anche passeggiate, ma se uso la calza medica con questo clima caldo, non, tra virgolette, soffoco le gambe, visto che il calore eccessivo non fa bene? No, non soffoca le gambe, e la calza medica è molto importante. Intanto ne esistono di diverse gradi, di diverse classi di compressione, per cui quando una persona ha avuto una trombosi o ha avuto una safenectomia un anno fa, probabilmente può chiedere al medico di passare a una compressione di minore intensità, la prima classe credo che possa essere sufficiente, e questo non provoca nessuna alterazione, perché è il circolo superficiale che viene compresso, ma il circolo profondo funziona bene. Andiamo a Prato, buongiorno Nicolò. Buongiorno. Allora, il mio problema è il seguente: io, a me ciclicamente mi vengono delle macchie rosse con prurito all'altezza delle caviglie. Sì. E praticamente io sono andato anche dal dermatologo, il quale mi ha diagnosticato una stasi circolatoria. Sì. che sto curando con una pomata che mi ha dato praticamente. Ora io volevo sapere, appunto, avendo anche del formicolio ultimamente, se era il caso di muoversi anche in altro modo, o comunque questa stasi circolatoria che cosa poteva comportare e che accorgimenti prendere, non so, quest'estate al mare o cose del genere, insomma, ecco, o comunque a livello medico. Grazie Nicolò per la domanda, che dà modo alla dottoressa Rotavender di dare delle indicazioni, perché il problema di Nicolò vedo dagli sms essere molto frequente. È vero, è molto frequente, soprattutto è frequente anche negli uomini che non sempre se ne rendono conto. Questo problema che lei segnala, probabilmente, perché io non la conosco, non ho abbastanza dati su di lei, dipende da un'insufficienza circolatoria proprio del sistema venoso, che è come un sistema idraulico. Le immagini di vedere un albero rovesciato, dove dalla punta dell'albero, cioè dai vasi più piccoli, il sangue deve entrare in vasi sempre più grandi, per ritornare verso il cuore. Quando c'è questo ristagno, i tessuti che dovrebbero ricevere il nutrimento dal sangue che è lì, ricevono un nutrimento scarso, insufficiente, perché le vene, quando il sangue ristagna, non riescono a portare il nutrimento sufficiente, sì. E quindi segnalano questa sofferenza con queste macchie, e di solito questa è la fase iniziale di una sindrome, potrebbe essere una sindrome post-plebitica. Quindi deve fare degli accertamenti ulteriori, oppure deve comunque... Beh, immagino che ne abbia fatti, che un Doppler gliel'abbiano fatto se gli hanno fatto questa diagnosi. Se non l'ha fatto, immagino che... penso che dovrebbe farlo. Bastano queste cremine, queste pomatine a cui Nicolò si riferiva, così apriamo il capitolo, danno sicuramente un senso di grande freschezza. Esatto. Vanno massaggiate, terapeutiche, oppure danno solamente una sensazione di benessere, che secondo me è terapeutica ugualmente. Ma le creme contengono sostanze che difficilmente riescono a passare veramente oltre il sottocute, per cui la crema non può mai fare il miracolo di fare schiarire una pelle con delle macchie derivanti da un'insufficienza venosa o con delle macchie rosse. La crema però aiuta, perché nello stesso momento in cui la si mette si è costretti in qualche maniera a spalmarla e a massaggiare. Questo potrebbe, se fatto bene, quindi da piede, ribadisco, verso l'inguine, potrebbe aiutare la circolazione. Quindi non è tanto la crema di per sé, che però può dare una sensazione di sollievo, certo, di freschezza, quanto il massaggio che dovrebbe accompagnare la stesura della crema. Si va a Bergamo, dottoressa Rotavender. Sì, a casa. A casa sua, perché ci aspetta Diego. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per la possibilità di intervenire. Io, mi sente? Sì, io la sento bene, Diego. Grazie. Io ho un problema, faccio molto sport, ho fatto sci nordico, adesso faccio palestra, ho fatto ciclismo. Perché i bergamaschi sono sportivi, qua la molto, dovrebbero. non sono assolutamente sovrappeso, però credo di aver ereditato da mia madre il problema delle cosiddette vene varicose. Sì. Io utilizzo questo gergo popolare. Purtroppo mia madre mi ha sempre fornito consigli, diciamo, di carattere un po' popolare, non esporsi ai raggi UV delle lampade, piuttosto che non farsi le cerette. Io credo, ecco, siano proprio consigli a livello popolare. È che sono proprio, è un problema magari, sì, sicuramente meno grave rispetto alle altre telefonate. Certo, no ma Diego, non ci sono problemi gravi, ci sono problemi di cui bisogna occuparsi per poi non preoccuparsi dopo. Diego magari scoprirà con della dottoressa Rotavender che le mamme hanno quasi sempre ragione. Dottoressa, intanto lo consoliamo, perché non è vero per niente che è un linguaggio popolare dire vene varicoso o varici, perché questo è un linguaggio assolutamente tecnico, quindi è corretto. Bravo. La seconda cosa è che quando, e come dicevamo prima, quando noi siamo il frutto dei nostri genitori, allora dobbiamo guardare come sono fatti i nostri genitori e poi supporre che come loro sono fatti, la loro struttura si sia trasmessa a noi, in certi distretti di più, in certi meno. Se lei ha ereditato dalla sua mamma questo sistema idraulico fra virgolette sfavorevole e fa tanto sport, quindi tutta la parte delle sue gambe ha bisogno di un flusso di sangue intenso, rapido ed efficiente, a questo punto credo che l'unico consiglio che le posso dare è di non esporsi al caldo, e la sua mamma ha perfettamente ragione, lo dicevamo prima. Se le capita di andare al mare, l'acqua salata è un ottimo strumento per sgonfiare le gambe, perché fa un effetto anche massaggio, quindi la camminata, questo vale per tutti, anche per le donne, la camminata a lungo nell'acqua con l'acqua che arriva fino sopra le ginocchia, lo può fare anche chi non sa nuotare sulla spiaggia, e quindi penso che la sua mamma le abbia dato dei buoni suggerimenti. Forse la calza elastica, sì, se la sente quando fa dell'attività sportiva. Lucia ci chiama da Verbania, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Lucia, così poi andiamo a sentire il traffico insieme. Sì, allora io, no, io ho un problema a queste gambe, che le sento pesantissime e poi dalla caviglia in su, per un 20-30 centimetri, diciamo, mi bruciano maledettamente. Sì, ho fatto delle visite così, mi hanno dato delle pastiglie, delle cose, però non ho mai avuto sollievo e non so se a questo punto sono date delle, non so, delle calze o delle cose. Una volta mi avevano dato delle calze 80 denari, ma non le ho messe perché non ho provato, non riuscivo proprio a sopportare. Che poi tra l'altro abbiamo visto che quelle calze in denari, Lucia, uno può sceglierle, ecco, può sceglierle ma non curano. Poi volevo chiedere solo, io peso 74 kg, non so se è un po' troppo. Ma dipende quanto è alta. È 1,61 o 2 così. Forse qualche chiletto in più. Lucia, ormai siamo diventate amiche, ci dice anche l'età? Sì, 64. Va bene, 64 allora, agosto. Va bene, quindi no, ancora 63. Dottoressa, prima ci eravamo lasciati con le calze, adesso ci siamo lasciati con Lucia. Che cosa possiamo rispondere? Ma io direi che siccome Lucia riferisce di avere questo problema ad ambedue le gambe e vista l'età e visto il sovrappeso, penso che dovrebbe con il suo medico curante cercare di capire qual è il piano per gli esami eventualmente da fare. Perché credo. Il prurito, dottoressa? Il prurito è un segno proprio della stasi. È sofferenza. Quelle cellule non ricevono ossigeno perché hanno sangue stagnante, quindi l'ossigeno non è sufficiente per la loro. E loro lo segnalano come possono. Ci sono cellule che lo segnalano cadendo, quindi sì. Molto spesso queste gambe da insufficienza venosa si spelano in qualche maniera, sono piene di macchie scure perché ci sono dei pigmenti che si depositano dentro la gamba. Allora, abbiamo detto che ci saremmo trasferiti in ambulatorio o in sala operatoria perché i trattamenti si possono eseguire in queste due sedi. Alcuni sono meno invasivi di altri, naturalmente, però la tendenza è di intervenire sempre con interventi sempre più soft. Lasciatemi utilizzare questo termine. In linea con noi abbiamo il professor Bonadeo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei, alla dottoressa Rota e ai nostri ascoltatori. Buongiorno. Responsabile dell'unità operativa di Day Surgery all'ospedale di Tortona. Professore, allora, ci sono, devo dire che rispetto al passato, adesso ai trattamenti per vene, le vene sono un pochino molto più rispettosi e meno invasivi. Questo è, possiamo definirla come la caratteristica degli interventi degli ultimi anni. Di questi alcuni si fanno in ambulatorio, quindi sono ancora meno invasivi di altri. Iniziamo a parlare della scleroterapia. In pratica voi iniettate un liquido nei capillari e questi si attenuano oppure spariscono. Non per magia, immagino, professore. Cosa succede? In effetti l'agente sclerosante provoca una microflebite chimica, quindi un processo che porta alla progressiva occlusione di questi piccoli vasi e quindi alla loro minore visibilità. Per quali casi è indicata? Vene piccole? In realtà la scleroterapia offre una gamma di applicazioni, si va dalla sclerosi dei piccoli vasi, quelli che noi chiamiamo telangiectasie e che normalmente le venuzze si chiamano capillari, fino a delle vene di maggiore calibro, vene francamente varicose, che siano però al di fuori dell'asse safenico, che poi è l'asse principale del sistema venoso superficiale. Senta, professore, fa male? È doloroso? La sclerosante è dolorosa? La sclerosante non è dolorosa, sempre che venga eseguita con una tecnica idonea. Certo. Senta, restiamo in ambulatorio, dove si può anche effettuare quello che in termini tecnici viene chiamata flebectomia. In pratica voi fate delle piccole incisioni dalle quali sfilate le piccole vene malate. È un'alternativa alla scleroterapia o ha delle indicazioni precise, dottore? È un'alternativa alla scleroterapia che in passato ha dato ottimi risultati anche per questo tipo di vene, però è anche vero che a volte queste vene sono abbastanza estese e quindi bisognerebbe fare molto agente sclerosante, quindi potrebbe esserci qualche complicazione e quindi preferite da questa flebite, quindi è più facile fare delle piccole incisioni con un'estensione di qualche millimetro ed estrarre queste vene dilatate, una pratica che si faceva molto anche in passato. Senta, ma da ottimi risultati. Senta professore, però usate anche il laser e questo mi sembra che a molti pazienti piaccia, perché la sentono è come qualcosa di esterno che non entra dentro, facendo come ad esempio il liquido della sclerosante. Indicazioni particolari? E poi ci scrive un'ascoltatrice se lascia cicatrici. Certo, allora il laser viene applicato da qualche anno per la obliterazione, per la chiusura dell'asse safenico. Sì. Quindi si pone in alternativa con la terapia tradizionale chirurgica, che è lo stripping della safena, l'asportazione della safena. Sì. Il laser invece agisce in termini fisici e provoca una chiusura dell'asse safenico. Deve essere applicato solo per calibri ben definiti della safena, perché se la safena è troppo dilatata il laser non va. Un grande risultato. Inoltre ci sono diversi laterali che affluiscono alla safena, che sono poi quelli che noi vediamo, che necessitano di quelle flebectomie, come dicevamo prima, per mini incisione. Quindi è una tecnica combinata in realtà. Di fatto dà il vantaggio che si può fare in ambulatorio, diciamo in sale operatorie comunque più piccole del normale, e soprattutto non dà un grosso disturbo nel post-operatorio. Professore, quando la safena invece è importante, il problema è già avanti e comunque questi interventi ambulatoriali non sono sufficienti o rischierebbero comunque di non avere il risultato sperato, si passa in sala operatoria, dove la safena viene sfilata? Viene sfilata completamente, è una tecnica tradizionale che ha dato sempre ottimi risultati e che può venire rivisitata con degli accorgimenti particolari. Così negli ultimi anni, per esempio, si operano sempre in anestesia spinale, quindi abbiamo abbandonato l'anestesia generale. Questo permette al paziente di poter ritornare al proprio domicilio e addirittura in serata. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. Allora, siamo saltati dall'ambulatorio alla sala operatoria per dare ai nostri ascoltatori un ventaglio di opzioni per essere informati. Naturalmente poi è il clinico, che è il chirurgo, che vedendo la situazione può suggerire, e a volte gli interventi sono proprio combinati. Professore, la saluto e la ringrazio, la lascio alla sala operatoria. Buona giornata. Grazie molte, grazie a tutti. Dottoressa Rotavender, molti ascoltatori ci scrivono che anche dopo l'operazione magari il problema si ripresenta, perché non bisogna abbassare la guardia. Mi sembra che di aver capito che l'insufficienza venosa è una malattia evolutiva, esatto. Quindi non è che con un'operazione poi il problema non esiste più. A prescindere dall'intervento, da come viene fatto e dalla tecnica che viene usata, comunque si va a intervenire su un sistema idraulico che di per sé era compromesso, o per ragioni ereditarie oppure per ragioni acquisite. Ora, siccome sull'ereditarietà non possiamo fare niente, quindi se abbiamo ereditato delle vene con una parete soffice, non abbastanza elastica, oppure già di per sé per anatomia dilatate, quello che possiamo fare dopo l'intervento è avere ancora più a cuore, anzi io comincerei ancora prima dell'intervento, certo, a calare di peso, per esempio il fumo è comunque un fattore di rischio, non interviene direttamente sulle vene, ma certamente interviene sulla coagulabilità del sangue, quindi una persona che fuma ha un sangue più denso e rischia di più di avere delle complicanze anche nei piccoli vasi. Consigli rapidi prima di metterci in contatto col professor Vincenzo Gasbarro, e che ci farà un invito proprio per le nostre gambe. Consigli pratici, no abiti stretti ad esempio. Credo che ci arriviamo da soli se visualizziamo come sono fatte le nostre gambe. Immaginiamole come un sistema idraulico che riporta il sangue verso il cuore, quindi tutto quello che lo stoppa, lo ferma, lo rallenta non va bene. Quindi peso da grasso soprattutto addominale non va bene, e lì ci vuole la ginnastica e un'alimentazione controllata in termini di qualità e in termini di quantità. Ricordiamoci che dobbiamo abituarci a mangiare delle porzioni più piccole, mangiamo troppo. Ci sono altre cose, la situazione della gravidanza per esempio. La gravidanza è una situazione delicatissima, perché il sangue coagula 4 volte più del normale, e quindi a maggior ragione in gravidanza calze elastiche. Tutto quello che ferma il sangue all'inguine, quindi jeans troppo stretti, gli stivali che fanno danno. Certo. la biancheria troppo stretta. E in linea abbiamo il professor Vincenzo Gasbarro, abbiamo dato tanti consigli, lui è qui con noi per fare un invito ai nostri ascoltatori, è chirurgo vascolare all'Università di Ferrara, presidente della Società Italiana di Flebolinfologia, coordinatore scientifico di questa campagna educazionale che è partita il 1° di aprile, 2 mesi, professore, dedicati proprio alla prevenzione, alle gambe degli uomini e delle donne. Professore, abbiamo 40 secondi per fare un invito che diciamo subito, secondo disponibilità dei posti. Professore. Buongiorno a tutti, l'invito è semplicemente continuare con quello che si è detto già in trasmissione, intanto saluto gli amici e colleghi che hanno partecipato questa mattina. Essenzialmente è insistere nel diffondere la conoscenza su questa malattia che i numeri ci dicono di essere di grandissima attualità e di grandissimo impegno sociale. Quindi è un impegno a far sì che possiamo vedere pazienti nelle fasi iniziali della malattia, nelle fasi iniziali dell'evoluzione di questa malattia che, come voi ben sapete, porta certo a condizioni gravissime nelle fasi tardive. Professore, e certamente questo servirà proprio per diffondere questo messaggio. Venite presto perché qualcosa possiamo fare. E c'è un numero verde, 10 città italiane hanno aderito a questa campagna, il numero verde è 800 198 078. Professore, la saluto, mettiamo le indicazioni sul nostro sito. Dottoressa Rotta Vendere, è stata magnifica, grazie. Io vi do appuntamento domani dopo il GR delle 11.